Italia in controluce. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, reportage alle inchieste su Radio 24. La Sardegna invasa da nuovi radar. Cosa serviranno? I reportage di Francesco Maesano. Che sei lontano da Saverrana via, permettetemi debbo. Ovest della Sardegna stanno costruendo un radar ufficiale della Repubblica di Maluento contro l'installazione dei radar anti-immigrati. Presidio davanti a Villa Devoto a Cagliari contro Papello. Sostenuta anche dall'amministrazione comunale, si oppone all'installazione di un radar di profondità per l'installazione di radar di profondità anti-immigrati nei siti individuati in Sardegna dalla Guardia di Finanza e mandato al Presidente della Giunta regionale affinché attui tutti gli interventi necessari per scongiurare tale situazione. Era l'inizio del 2011 quando la Guardia di Finanza ha deciso l'installazione di radar costieri di profondità sulle coste sarde. C'è chi lo chiama fortino europeo e chi difesa dei confini comunitari. Comunque lo si chiami, le ruspe sono arrivate a Capopecora, a Caposperone, a Ischiarui e a Punta Vedetta, che sono alcuni dei punti più belli e selvaggi della costa occidentale della Sardegna. Ma subito dopo le ruspe sono comparsi i sardi. Come si sono accorti dell'apertura dei cantieri, infatti gli abitanti hanno dato vita a dei presidi per bloccare i lavori. Oltre alla possibile minaccia per i territori incontaminati e alla paura di nuove servitù militari sull'isola, i cittadini si chiedono se e in che misura l'inquinamento elettromagnetico prodotto dai radar sia dannoso per la salute di chi abita a meno di 50 km, dato che è questa la distanza coperta dal raggio. E inoltre hanno sollevato interrogativi su quali siano stati i criteri di assegnazione dei lavori alla ditta che ha fornito e installato gli apparecchi, l'Alma Viva S.p.A. Abbiamo parlato con Gianluca Berutti del Comitato Antiradar di Cagliari e con Paola Angius del comitato che ha organizzato i presidi a Capopecora. Allora, le costruzioni sono iniziate fine febbraio-marzo, perlomeno a Caposperone. È iniziato addirittura prima che fosse emesso anche un cartello di inizio lavori, come è stabilito dalla legge, e senza che in realtà nessuno fosse né preavvisato né altro, tanto che quando degli abitanti del posto sono andati a chiedere cosa stessero facendo gli operai, gli hanno risposto che era segreto di Stato e se ne sono andati, e da allora non sono più tornati, anche perché è iniziato il presidio. A Capopecora invece la stessa cosa è successa, con delle variabili in cui è stato messo sì un cartello di inizio lavori, ma a quanto pare al comune non sapevano esattamente quando sarebbero iniziati i lavori, nonostante gliel'avrebbero dovuto comunicare. In più, nel progetto è previsto che questa costruzione di radar abbia un impatto ambientale minimo. Invece a Capopecora è successo che hanno praticamente sbancato tutta una grossissima fascia di macchia mediterranea facendo una strada larga 6 metri e quindi l'impatto, diciamo, il basso impatto non c'è stato. Dal 1 di maggio noi stiamo presidiando l'area in cui la Guardia di Finanza intende installare il radar. Già da appena abbiamo saputo che c'era questa voce in giro, abbiamo incominciato il presidio, purtroppo. Troppo tardi, in quanto quando noi ci siamo resi conto del fatto avevano sbancato già una collina apportando quindi dei danni ambientali alla collina stessa. È sceso il rappresentante di Alma Viva che ci voleva far credere in maniera così, come se fossimo i deficienti di turno, scusate il termine, ma è questo, che questi radar avevano la stessa potenza delle antenne dei telefonini. Cioè, questa è stata la barzelletta che hanno portato avanti per un po' di tempo, fin tanto che non abbiamo visto tutte le schede tecniche del radar e abbiamo capito effettivamente di che cosa si trattava. Sempre all'inizio del 2011, la Guardia di Finanza aveva fatto installare dalla stessa azienda un radar appollaiato su un traliccio di 36 metri in cima al promontorio del Plemirio, in Sicilia, provincia di Siracusa. La zona è sottoposta a tutela sia ambientale che archeologica e si trova proprio di fronte ad un'area marina protetta. Dopo le proteste delle associazioni locali, il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, lei stessa siracusana, a metà aprile si è impegnata a rimuovere il radar. E allora alcuni parlamentari sardi alla Camera dei Deputati hanno presentato nell'estate una interrogazione al governo per chiedere di far luce sul modo in cui si è deciso di mettere i radar in Sardegna. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Caterina Pes del PD, la prima firmataria di quella interrogazione. I radar intanto sono rischiosi dal punto di vista della salute, qualcuno dice di no, però non ci sono ancora prove certe che i radar non lo siano. In secondo luogo, sono, alcuni di questi sorgerebbero in zone di interesse comunitario, in zone SIC o in zone cosiddette protette per il punto, dal punto di vista paesaggistico, e in Sardegna ne abbiamo tante. In terzo luogo, la domanda del perché, cioè la domanda quella fondamentale che lei mi ha fatto all'inizio, cioè perché non c'è un decreto del Ministero della Difesa, che noi abbiamo fatto nella nostra interrogazione, era volutamente indiretta, perché noi sapevamo perché non ci fosse un decreto del Ministro della Difesa, perché questo è gestito dalla Guardia di Finanza, che non dipende, come lei sa, dal Ministero della Difesa, ma dipende dal Ministro Tremonti. Allora, purtroppo ci troviamo di fronte ad una competizione tra forze armate per chi gestisce meglio il territorio costiero. Questo, di questo si tratta. Ho capito, e perché però la Sicilia viene tutelata in qualche modo e la Sardegna no? Perché evidentemente il ministro Prestigiacomo, oltre che essere un ministro di questo governo, è anche il ministro dell'ambiente, e quindi naturalmente protegge molto bene il suo collegio elettorale. C'è un bando europeo che stanzia, un bando POR, che stanzia dei finanziamenti per la difesa delle coste. A questo bando POR partecipa una società che si chiama Almaviva, legata a Finmeccanica, e c'è un giro comunque, secondo me, di denaro intorno a cui poi si orientano anche tutte queste cose qua. Onorevole, lei ha chiesto al governo se ci sia stata o meno la gara d'appalto per l'assegnazione ad Almaviva della commessa. Che risposta ha avuto? Io su questo non ho ricevuto risposta. Il governo non ha risposto? No. Almaviva SPA è esclusivista per il mercato italiano del modello di radar dell'Elta System richiesto dalla Guardia di Finanza. A capo dell'azienda c'è l'ingegnere Alberto Tripi, presidente anche del consorzio che accomuna la stessa Almaviva all'ELSAG, azienda del gruppo Finmeccanica, con la quale ha dato vita ad Initalia, consorzio per l'informatica italiana. Il vicepresidente di Almaviva è Giuseppe Cuneo, fino al 2004 amministratore delegato della stessa ELSAG. I lavori in Sardegna al momento sono stati interrotti dalla sospensiva del TAR. In attesa della decisione del Tribunale prevista per il 5 ottobre, abbiamo chiamato l'ingegner Piero Rossini, responsabile della divisione difesa e sicurezza di Almaviva, per un commento. Perché i lavori secondo lei sono stati bloccati in Sardegna? Perché non siamo in uno stato di diritto. Perché noi abbiamo vinto una gara, quindi tutto quello che è stato scritto in merito alle assegnazioni dirette è assolutamente falso. Quindi c'è stata una gara d'appalto? C'è stata una gara d'appalto a cui abbiamo partecipato noi, ha partecipato la Finmeccanica, ha partecipato la GEM, hanno partecipato almeno un altro paio di ditte a cui che poi però non hanno presentato offerta. Quindi c'è stata una gara d'appalto. Prima di cominciare i lavori abbiamo ricevuto tutte le autorizzazioni, compresa quella di impatto ambientale, comprese le autorizzazioni di impatto ambientale. Dopodiché è montato questa fronda di questi circoli, chiamiamoli così, ambientalisti, no global. Siamo arrivati a un incontro con i sindaci in prefettura, che hanno naturalmente periodo elettorale e hanno disconosciuto le autorizzazioni da loro uffici emesse. A questo punto, siccome diciamo non facciamo ordine pubblico ma facciamo un altro mestiere, diciamo abbiamo sospeso i lavori, però diciamo come loro hanno diritto di protestare, noi avremmo diritto di eseguire un contratto, insomma. Però c'è anche la sospensiva del TAR in proposito. La sospensiva del TAR è arrivata molto dopo, a cui non ci siamo neanche voluti appellare, cioè non abbiamo neanche presentato ricorso contro la sospensiva del TAR. E quindi cosa vi aspettate, di poter ricominciare i lavori dopo ottobre? Adesso ci aspettiamo che intanto venga, diciamo, veniamo a capo di questa... di questa storia. Stiamo anche valutando altri siti, magari all'interno delle esistenti servitù militari, in modo tale che così vediamo se riusciamo a venire a capo del problema, insomma. non che liberamo da lo scapitalista al governante. Seconda edizione di Italia in Controluce, vi ricordo, Facebook, avete la pagina e il gruppo, Twitter, avete la possibilità di vedere ogni giorno su Twitter i nostri temi dei programma, siamo rintracciabili via mail a controluceradio24.it, dove potete indicarci anche alcuni dei vostri temi cari. Torniamo domani alle 6.30 con la pillola di Italia in Controluce su Radio 24.